ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. La seduta riprende. Cielo alto. Identificato. Daddo contento. Avevano finalmente identificato il colpevole. Era, come il conte aveva temuto, uno di Milano. Un povero magro ragazzo alto e verde, con indosso una tunica verde grondante di alghe. Giaceva sotto l'accusa piangendo. L'arma con la quale aveva colpito il signore era ancora nella sua mano. Uno degli uscieri, delicatamente, gliela tolse. E quella mano ricadde come cosa morta. Egli parlava e piangeva al modo dei disgraziati. Aveva, malgrado lo sgradevole aspetto, la più bella voce del mondo. Il conte dové riconoscerlo. Una voce d'argento, assai dolce, assai pura, come spezzata. Il conte non ne aveva pietà, ma era molto debole e veder soffrire gli faceva male, per quanto sentisse oscuramente che presto tali sofferenze sarebbero cessate, e anche per l'imputato vi sarebbe stata gioia grande, dato che l'Altissimo, malgrado le sue ferite, ancora viveva. Accanto a lui, all'imputato, ma anche al conte, che assai si somigliavano, era il buon Ilario, che sempre sosteneva quella afflitta immagine, ripetendo al malato: «Vedrai, è nulla, mio caro, è nulla», con la mite voce che si era udita allo sbarco nell'isola. Il conte non era però preoccupato per il destino di quell'uomo, qualunque fosse, solo affascinato dalla sua caduta. Così dunque si cade, per quanto la società possa porci in alto, così l'evenienza è appostata dietro la massima stabilità e il niente dietro la gloria. Così, di colpo, si scorge il traguardo. Vide dei marinai che circondavano la gabbia, cioè il pozzo, e con una specie di disgusto riconobbe il salvato. «L'acqua non era molto alta, signore», disse il poveraccio parlando con Mr. Hopkins, «ma egli ha battuto per ogni parte». «Venga disteso, aria!» gridò Mr. Hopkins. Così lo portavano verso casa, servendosi di alcune assi tenute insieme da corde. Il conte vedeva ciò distintamente, vedeva il cielo assai alto e provava una gioia che lo faceva sorridere. Quando la seduta riprese, il tribunale, forse a causa di quel momentaneo smarrimento del conte, era leggermente mutato. Era una stanza dalle alte pareti molto spoglie e non così intensamente illuminata come il vero tribunale. Molte persone se n'erano andate e regnava un penoso silenzio. Intorno all'imputato, che era stato sdraiato su un lettuccio, si vedevano sguardi pensierosi e commossi. «La gente ha a cuore. La gente è buona dopo tutto, lettore. E della repentina disgrazia del povero accusato, tutti in fondo avevano pena. Meno, sebbene egli non fosse d'animo duro, tutt'altro, il giovane conte. Egli era assai stupito da qualche momento. Sentiva due cose fra loro altamente contrastanti e che non riusciva, almeno per ora, a collegare, sebbene il significato fosse tutt'altro che terribile, fosse lieto e umano e ci fosse dunque da sperare. Sentì che il suo viaggiare era stato immobilità e ora, nell'immobilità, cominciava il vero viaggiare. Sentì poi che questi viaggi sono sogni e le iguane ammonimenti, che non ci sono iguane ma solo travestimenti, ideati dall'uomo allo scopo di opprimere il suo simile e mantenuti da una terribile società. Questa società egli aveva espresso, ma ora ne usciva. Di ciò era contento. La seduta riprese, sebbene in modo disordinato e sempre sullo sfondo grave e lento delle campane. Pare che la colpa principale dell'imputato fosse l'incoscienza, una specie di fanciullaggine o stupore malinconico che lo aveva reso estraneo alla terribile realtà del mondo e gli aveva mostrato favole e mostri dove non erano che mercati e creature non segnate sul registro della potenza economica. Vide che a questa accusa, mossa dalla persona che meno era autorizzata a prendere la parola, cioè il Fidenzio Aureliano, molti piangevano, in quanto di ciò, senza però alcuna carità del cuore, erano colpevoli tutti. Si alzò a questo punto un frate, che il conte mai aveva veduto prima, e parlò per un pezzo senza essere interrotto. Disse che la colpa del conte... «È un conte anche lui, quel povero uomo», si disse con pietà il Daddo. «Se di colpa si poteva parlare, era in fondo il suo idealismo, privo di un vero senso del reale, cioè della contabilità». «Egli non vide», disse, «che la grazia che lo incantava nelle creature delle isole era costata a quelle creature l'autentico paradiso, il solo che conosciamo, il quale è sulla terra e viene dato dietro versamento di denari». Enumerò tutte le terre, le case, le isole che gli uomini come il conte avevano comprato e non solo gli Aleardi, disse, i cui domini erano incalcolabili, ma anche i Hopins, causando la perdita di gentili uomini come Ilario e provocando il loro snaturamento. A causa di ciò, di questo potere conferito ai denari, si accumulavano delitti dovunque e lunghe torture e isolamento per coloro che denari non avevano. E sebbene riscattati infine da azioni come quella che aveva compiuto il conte scendendo nel pozzo e spezzandosi in tutto il corpo per trarne la misera iguana, sempre delitti rimanevano. Ma delle attenuanti il giudice celeste, cioè l'umanità tutta, avrebbe tenuto conto. Il conte piangeva. «Egli ha fatto dunque qualcosa di buono», si diceva. «Egli, dunque, la sua vita non fu inutile. Io vi ringrazio, signore o signori, chiunque voi siate. Egli pagò finalmente con la sua moneta più vera. Per la iguana egli diede la vita!» E gridando questo, perché gridò, vide che quel conte era lui. Fece in tempo a sentire Ilario che gli domandava piangendo come stesse e a riconoscere distintamente tutti i personaggi che abbiamo descritto in questa storia e che non avevano più nulla di strambo perché ormai il conte era guarito del suo carattere fantastico. Erano povera gente di questo mondo, come tu, lettore, ne avrai spesso veduta, gente piena di traffici ed imbrogli, avida di salire, ma in definitiva non malvagia. Vide dunque Ilario, senza più il terribile Mendes, un povero ragazzo assai triste che gli prendeva una mano e subito, con un dolce amaro sorriso, uscì. Sentiva bisogno d'aria. Tornò dunque al pozzo e i due Guzman erano di nuovo accanto a lui. Thank you. viaggio riprende. Chi era l'iguana? Andiamo, Cosmo, Grazia, tutti. Avevano, benché armati, il loro lacero aspetto di sempre, e il conte ne aveva pietà. Sapeva tutto di loro ormai, come erano cresciuti, senza amore, senza istruzione, in una solitudine terribile. E come prima di ciò fossero stati ragazzi, e le loro speranze di quel tempo lo straziavano. Ma insieme era lieto perché capiva che questa vita e le sue condizioni, sebbene non cessi l'urgenza di un riordinamento economico, erano di mutamento, erano un viaggio per un continente più grande, un reale più dolce, privo di umiliazione e perplessità, e di tutti quegli inganni coi quali la vita intende dimostrare che non è essa il fiume o il rivo che corre al mare, mentre non è altro, e là, in un quieto azzurro, riposerà. Chiese, a causa dell'antica dolcezza dell'aria che lo faceva ancora più sensibile a questa terra che tutti dobbiamo abbandonare e alle sue particolarità, chiese ai Guzman se avessero studiato da ragazzi e come si portavano a scuola. Non molto bene, signore, rispose Ippolito asciugandosi una lacrima. Non piangere, caro, disse il conte, se non hai avuto una gran buona votazione. Anch'io, credimi, non amavo molto lo studio. Per tutta l'umanità giovane è così. C'erano dei fiori gialli in un campo, molto grandi. Ippolito ne colse un po' e li offerse silenziosamente al conte. Gliene mise sul petto e sul viso. In lui, però, perdurava una certa oscurità. A causa di quei fiori, di quel vegetale splendore giallo e insieme della forte luce dell'aria, non vedeva più il sentiero dove camminavano, e allora Felipe gridò con una voce che gli parve di aver già udita: «Attento, signore, potrebbe andar giù!» Ed egli di colpo la rivide. Non era una iguana e nemmeno una regina. Era una servetta come ce ne sono tante nelle isole, con due occhi fissi e grandi in un volto non più grande di un chicco di riso. E aveva i capelli neri aggiustati come una torricella intorno al volto severo e timido. La sua bocca non sorrideva. Non era vestita di merletto bianco, ma di semplici cenci grigi. E su quei cenci, tutti sparsi intorno a lei come petali di fango, sembrava dormire, sognare. Gli occhi erano aperti e fissi. L'acqua saliva sempre. «Perdita!» gridò il conte e sentì una voce dal fondo, umile e strana, rispondere: «Signore, sono qui!» «Tieni fermo! Scendo!» Da allora era cominciata la sua discesa, che finiva ora. Si risvegliò, guardò Ilario, gli sorrise. Chiese debolmente che ora fosse. «Le tre», il povero ragazzo rispose, e voleva aggiungere con quella follia tipica dei gravi momenti: «Se il mio orologio va bene». Ma vide che il conte, chiuso nelle sue bende, si agitava. Allora non resse più, corse a nascondersi in cucina. Vicino al conte rimasero il Hopkins e i due fratelli. E questi, in piedi, mentre il Hopkins si era inginocchiato, avevano abbassato il capo, sentendo come non sia bene guardare un uomo che muore. Ma le orecchie erano aperte e sentivano con meraviglia parole strane e spezzati, dolci ordini come: «Comprare ormai inutile, necessario guardare, moneta non basta, ecco, navi, educazione sbagliata, non importa, tempo buono, diamo, Cosmo, beni incalcolabili, nuove terre, Grazia, tutti». Poi ogni parola cessò. Veniva dal petto del malato un suono rapido, ansioso, continuo. Il suo volto si fece lungo e cupo e poi, senza alcun motivo, sereno. Cortesemente, come era vissuto, il conte morì. 2 ore dopo questi fatti regnava nel misero villaggio di Ocagna, villaggio che il conte nella sua follia non aveva veduto, la più triste e concreta confusione. La gente andava e veniva chiedendo notizie, a cui purtroppo non rispondevano che gli occhi arrossati dei signori. Poiché era una sera tempestosa e in casa, come nel villaggio, mancava una scorta di lumi, i Hopkins portarono da bordo delle lanterne che furono accese in tutte le stanze e a quella luce vegliarono essi e i disgraziati Segovia Guzman che piangevano come agnelli. Un altro lamento, ma quasi ridicolo, si sentiva da una stanza vicina a quella del gentiluomo ed era l'incantata servettina della villa, la quale non si era fatta, nel suo falso, ovvero Dio solo può giudicare, tentativo di suicidio granché male, avendo la fortuna, e forse certa benignità d'erba e d'acqua che riempiono i misteriosi pozzi, assistita. Non solo, ma quelle stesse ferite del cuore che forse ti avranno turbato, lettore, erano volatilizzate, sparite, in quanto tutta la sua appassionata e selvatica mente era occupata adesso dalla morte del Signore e dalla pietà che aveva avuto di lei. E quando aveva gridato «Perdita!», da quel momento tutti gli strazianti sortilegi dell'isola e la stessa sua malvagità erano scomparsi. Si struggeva in pianto, seduta tra i suoi sacchetti. Oh, che cosa avrebbe dato per risvegliarlo! Di lei ebbe compassione Mrs. Hopkins, che pure, come ricorderai, aveva gridato «Uccidetela!» e andò a portarle latte e vino bollente. Sentiva che la morte del conte non era colpa, e del resto tutti lo sentivano, della servettina, quanto dei loro mondani giochi, che il fresco animo di lui non aveva capito, e ora il rimorso la induceva ad una compassione di cui non si sarebbe creduta capace. Regnava sulla casa un silenzio profondo, benché tutti fossero svegli, e ciò perché il conte dormiva, dopo il suo tragico risveglio, assai quietamente. Disteso in una specie di barca di quercia, che il suo marinaio e i fratelli selvaggi avevano con grande amore approntato, giaceva in un nero abito da società, mai messo prima d'allora, con una rosa di siepe tra le magre mani e sparsi i piedi eleganti di tanti altri gialli fiori. Il libro di Manrique e un crocifisso d'argento erano a un lato del guanciale. Mai il conte era stato più calmo e bello, come voleva del resto la leggenda dei Grays, ma vi era in più, nel suo volto bianco e affinato, un che di cupo, come l'ombra di ciò che il nobile aveva patito negli ultimi 2 giorni della sua esistenza, quando il presentimento del male e il dubbio sui veri colpevoli lo attanagliavano, quell'ombra ancora lo perseguisse. Ora tutto era chiarito, ma dal suo ricordo, forse, quel velo che più leggero di un fiato andava e veniva sulla sensibile fronte, effetto può anche darsi delle incerte fiamme, mentre del chiaro sorriso che rialzava appena le sue labbra, il meraviglioso sorriso di coloro che hanno da poco superato la minore delle 2 prove, l'altra è la vita, non sembrava esservi ragione. Quel sorriso che turbò tutti e li rese partecipi di non so che altezza di questo mondo che pure si crede merce o altro, all'alba finì. Il viaggiatore apparve più stanco e come segreto. Pioveva. Arte. Art City 2018. Oltre 100 eventi organizzati dal Polo Museale del Lazio nei musei e per i musei. A Palazzo Venezia, Castel Sant'Angelo, Vittoriano e in tanti luoghi d'arte del Lazio. Da giugno a novembre. art-city.it. E questa era la 17ª e penultima puntata dell'Iguana di Anna Maria Ortese, letta da Monica De Muro per Ad Alta Voce, che è sempre a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, per la regia di Riccardo Amorese, da riascoltare su RaiPlayRadio.it. Fahrenheit termina qui. I saluti vengono da Carlo D'Amicis, Giosuè Calaciura, Laura Marinelli, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Luca De Ioris alla console, linea Oreste Bossini per il Parsifal. Ci risentiamo domani.